Non ha buon senso un giovane che è legittimamente vuole avere un rapporto sessuale con... Secondo me non ce l'ha, perché ogni cosa ha il suo tempo. Mentre gli animali si accoppiano quando hanno determinate pulsioni che sono regolate dalla natura in certi periodi, diciamo, nell'uomo e nella donna questo discorso non è così, perché c'è una differente... c'è la ricerca di un piacere e di utilizzare il sesso come compenso di ricerca di piacere, ricerca di soddisfazione, compenso magari di frustrazioni o altre cose o altri problemi. Cioè, poi noi ci lamentiamo che ci sono, come posso dire, stupri, che ci sono violenze, che ci sono, cioè, se no, uno che c'entra, no, dottor Uruda, però mi scusi, c'è tutta una pubblicità, no? No, però non scendiamo, perché che c'entra tirare in ballo gli stupri, mi perdoni, cioè, su questo proprio non la seguo per niente, No, è che se uno, no, io quello che voglio dire è che se uno si educa al controllo di sé, al dominio dei propri istinti, al fatto che certe cose non si devono fare se non in certo, con certe finalità, allora il discorso è che si comporta, c'è una disciplina alla quale tutti ci riconosciamo, sì. Mentre invece da noi, a causa del peccato originale secondo i credenti, c'è un disorientamento della persona e quindi c'è un, come potrei dire, l'istinto è deviato. E noi accidenti, stiamo dando no, lo zucchero al diabetico.